a luci fa pata la noso rimane rao a chidu a luci fa pata la noso rimane rao a chidu. Fa poi tu sa.